Capitolo 25. Le visioni romanzesche erano finite. Ora Catherine era completamente sveglia. Il discorso di Harry, per quanto breve, le aveva rivelato le assurdità delle sue fantasie, più di quanto tutte le precedenti delusioni fossero riuscite a fare. Si sentiva dolorosamente umiliata, piangeva amarissimamente, si sentiva sprofondare, e non solo davanti a se stessa, ma davanti a Harry. La sua follia, che ora le sembrava quasi criminale, lui la conosceva perfettamente, l'avrebbe disprezzata per sempre. La libertà che la sua immaginazione aveva osato prendersi con il carattere di suo padre avrebbe mai potuto perdonarla. L'assurdità della sua curiosità e delle sue paure l'avrebbe mai potuta dimenticare. Odiava se stessa più di quanto potesse esprimere. Egli aveva. A lei era sembrato che avesse dimostrato una volta o due. Prima di quella fatale mattina, qualcosa di simile all'affetto verso di lei, ma ora, in breve, si tormentò il più possibile per mezz'ora. Scese quando l'orologio suonava le 5 con il cuore spezzato e riuscì a malapena a rispondere in modo intelligente alla domanda di Eleanor che chiedeva se si sentisse bene. Harry, che lei temeva tanto, entrò subito dopo e l'unica differenza nel suo comportamento verso di lei fu che le sue attenzioni furono maggiori del solito. Catherine non aveva mai avuto più bisogno di essere confortata e sembrava che lui se ne rendesse conto. La serata passò senza che questa gentilezza consolante diminuisse e piano piano lei riuscì a sentirsi quasi tranquilla. Non imparò a dimenticare il passato né a scusare se stessa per quanto era successo, ma imparò a sperare che niente sarebbe mai trapelato e che forse non le sarebbe costato tutta la considerazione che Harry aveva per lei. Dato che i suoi pensieri erano ancora fissi principalmente a quello che aveva pensato e fatto, guidata da un terrore così privo di fondamento, le fu ben presto chiaro, come non mai, che si era trattato di un'allucinazione volontaria, creata da lei stessa, e che a ogni circostanza insignificante era stata attribuita importanza dalla sua immaginazione, per il desiderio di provare spavento. E che aveva travisato tutto per un unico fine al quale il suo animo tendeva prima ancora di mettere piede nell'abbazia, e cioè il desiderio ardente di aver paura. Ricordò i sentimenti con cui si era preparata a conoscere Northanger. Vedeva che l'infatuazione era stata creata, che il danno era già stato fatto molto prima che lasciasse Bath. E sembrava che la causa di tutto si potesse rintracciare nelle letture in cui appunto a Bath aveva amato indulgere. Per quanto le opere di Anne Radcliffe fossero affascinanti, e per quanto fossero affascinanti anche le opere dei suoi imitatori, forse non si doveva vedere in loro uno specchio della natura umana, almeno di quelle delle contee dell'Inghilterra centrale. Potevano forse descrivere fedelmente le Alpi e i Pirenei, con le loro foreste di pini, i loro vizi, e l'Italia, la Svizzera e la Francia del Sud. Potevano forse essere feconde di orrori, quali venivano rappresentati. Il ripensamento di Catherine, infatti, non osava estendersi oltre il proprio paese. E anche per quanto riguardava l'Inghilterra, se glielo avessero chiesto con insistenza, non avrebbe potuto giurare sulle estremità settentrionali e occidentale. Ma nell'Inghilterra centrale c'erano certamente mezzi per proteggere anche una moglie poco amata, grazie alle leggi e al costume dell'epoca. Il delitto non veniva tollerato. E i servitori non erano furfanti e non ci si poteva procurare veleno o sonniferi in qualsiasi farmacia come se fossero rabarbaro. Nelle Alpi e nei Pirenei forse non vi erano individui con un carattere misto. Laggiù probabilmente chi non era senza macchia come un angelo non poteva che essere un demonio, ma in Inghilterra non era così. Fra gli inglesi, pensava, nei loro cuori e nelle loro abitudini si poteva trovare in genere un miscuglio di bene e di male. Anche se le proporzioni non erano uguali per tutti. Sulla base di questa convinzione, non si sarebbe sorpresa se perfino Harry e Eleanor Tilney avessero in seguito rivelato qualche imperfezione. E sulla base di questa convinzione, non temeva più di riconoscere che effettivamente il carattere del loro padre mostrava alcune pecche. Credeva, dopo matura riflessione, che egli, per quanto liberato dai sospetti assolutamente ingiuriosi che lei aveva nutrito su di lui e di cui sarebbe sempre arrossita, che egli dunque non fosse del tutto simpatico. Fatte queste considerazioni e formulato il proponimento di giudicare e agire in futuro sempre con il massimo buonsenso, non aveva altro da fare che perdonare se stessa ed essere più felice che mai. E la mano indulgente del tempo, pian piano, impercettibilmente, fece molto per lei nel corso del giorno seguente. La stupefacente generosità e nobiltà d'animo di Henry, che non fece mai la minima allusione a quanto era accaduto, le furono di aiuto inestimabile. E prima di quanto lei stessa avrebbe potuto credere all'inizio delle sue pene, ricominciò a sentirsi completamente a suo agio e anzi capace, come sempre, di sentirsi ancora meglio ogni volta che lui le diceva qualcosa. C'erano tuttora in effetti degli argomenti che pensava l'avrebbero sempre fatta tremare. L'accenno a una cassapanca o a un secretaire, per esempio, non poteva più vedere le lacche giapponesi di qualsiasi tipo. Ma anche lei doveva ammettere che qualche occasionale momento della passata follia poteva farle bene. Le ansie della vita di tutti i giorni sostituirono presto i terrori romanzeschi. Il desiderio di avere notizie di Isabella aumentava di giorno in giorno, era impaziente di sapere cosa accadeva nel piccolo mondo di Bath e chi frequentava le sale. Ed era particolarmente ansiosa di sapere se Isabella aveva trovato una certa stoffa di cotone molto bella e di sentirsi assicurare che le cose tra lei e James andavano nel miglior modo possibile. Per qualsiasi informazione dipendeva da Isabella. James aveva affermato che non aveva intenzioni di scrivere finché non fosse tornato a Oxford e la signora Allen non le aveva dato speranze di ricevere lettere finché lei e il marito non fossero stati nuovamente a Fullerton. Ma Isabella aveva promesso e ripromesso, e quando prometteva una cosa era così scrupolosa nel mantenerla. Proprio per questo il suo silenzio era tanto strano. Per 9 mattine successive Catherine espresse la sua meraviglia al ripetersi di una delusione che ogni mattina diventava più cocente. Ma il decimo giorno, quando entrò nella sala della colazione, la prima cosa che vide fu una lettera che Harry gentilmente le porgeva. Lei lo ringraziò calorosamente, come se fosse stato lui a scriverle. «È solo di James, comunque», disse guardando il mittente. «L'apri?» Veniva da Oxford e il contenuto era il seguente. «Cara Catherine, benché solo Dio sappia quanta poca voglia ho di scrivere, ritengo mio dovere comunicarti che tra me e la signorina Thorpe è tutto finito. L'ho lasciata ieri a Bath e non la rivedrò mai più. Non entrerò in particolari, servirebbero solo ad addolorarti di più. Ne sentirai presto abbastanza da un'altra campana e potrai vedere di chi è la colpa. Io spero soltanto che non biasimerai tuo fratello, se non per l'errore di aver creduto troppo facilmente che il suo affetto era ricambiato. Grazie a Dio mi sono ravveduto in tempo, ma è stato un duro colpo. Dopo che papà aveva dato il suo assenso con tanta bontà, ma non parliamone più. Lei mi ha reso infelice per sempre. Scrivimi presto, cara Catherine, sei la mia unica amica. È solo sul tuo affetto che faccio affidamento. Spero che la tua visita a Northanger termini prima che il capitano Tilney renda pubblico il suo fidanzamento, altrimenti ti troverai a disagio. Il povero Thorpe è in città, ho paura di incontrarlo, so che il suo cuore sincero ne soffrirebbe. Ho scritto a lui e a papà. Quello che mi fa più male è la sua doppiezza. Fino all'ultimo a sentire lei mi voleva bene come sempre rideva dei miei timori. Mi vergogno al pensiero di quanto ho sopportato. Ma se mai un uomo ha avuto motivo di credere di essere riamato, quell'uomo sono io. Ancora adesso non riesco a capire quale fosse il suo fine, perché non c'era bisogno di prendere in giro me per essere sicura di Tilney. Alla fine ci siamo lasciati di comune accordo. Meglio sarebbe stato per me non averla mai conosciuta. Non potrò mai incontrare un'altra donna come lei. Carissima Catherine, sta attenta a chi doni il tuo cuore. Credimi. James. Catherine non aveva letto nemmeno 3 righe quando l'improvviso cambiamento della sua espressione e le brevi esclamazioni di meraviglia e di dolore avevano reso evidente che leggeva notizie spiacevoli e Harry, osservandola attentamente mentre scorreva tutta la lettera, vide chiaramente che questa non finiva meglio di come era cominciata. Non poté comunque manifestare in nessun modo la sua sorpresa perché entrò il padre. Andarono immediatamente a far colazione, ma Catherine non riusciva a mangiare niente. Restava seduta con loro, ma aveva gli occhi pieni di lacrime che a volte le scorrevano giù per le guance. Prendeva in mano la lettera, se la metteva in grembo, la infilava in tasca. Sembrava non sapesse nemmeno lei quello che faceva. Il generale, occupato con la sua cioccolata e con il giornale, fortunatamente non ebbe modo di notarla, ma per gli altri due il suo dolore era ugualmente evidente. Non appena trovò il coraggio di alzarsi, scappò in camera sua, ma le cameriere la stavano riordinando e dovette scendere di nuovo. Andò in soggiorno per cercare un po' di solitudine, ma anche Harry e Eleanor si erano ritirati là. Stavano proprio allora parlando tra loro di lei. Fece per andarsene chiedendo scusa, ma gli altri, gentili ma fermi, la costrinsero a tornare indietro. Se ne andarono loro, dopo che Eleanor le ebbe espresso affettuosamente il proprio desiderio di essere di qualche utilità o comunque di conforto. Dopo aver dato libero corso al dolore e alla riflessione per una mezz'ora, Catherine si sentì in grado di affrontare gli amici. Ma se dovesse o meno renderli partecipi del motivo di quel dolore era un altro problema. Forse se le avessero fatto troppe domande avrebbe potuto dare loro un'idea della cosa, alludervi appena, ma non di più. Svelare che un'amica aveva avuto quel comportamento e un'amica come Isabella era stata per lei e il loro fratello così profondamente implicato nella faccenda. Oh, era sicura di dover assolutamente evitare l'argomento. Harry e Eleanor erano soli nella sala della colazione e tutti e due, quando lei entrò, la guardarono ansiosamente. Catherine riprese il suo posto a tavola e dopo un breve silenzio Eleanor disse: «Spero che non ci siano cattive notizie da Fullerton. I signori Morland e tutta la famiglia, nessuno di loro è ammalato, vero?» Per un po' nessuno parlò, poi, quasi piangendo di nuovo, lei aggiunse: «Non credo che desidererò mai più ricevere una lettera.» «Oh, mi dispiace», disse Harry, chiudendo il libro che aveva appena aperto. «Se avessi potuto immaginare che la lettera conteneva notizie spiacevoli, ve l'avrei data con sentimenti molto diversi.» Conteneva qualcosa di molto peggio di quanto chiunque potesse immaginare. «Povero James, è così infelice. Ne saprete presto il perché.» «Avere una sorella dal cuore così gentile, una sorella così affezionata», replicò Harry con calore, «deve essere un conforto per lui, qualunque sia la prova che deve affrontare.» «Ho un favore da chiedervi», disse Catherine poco dopo, sempre più sconvolta. «Se dovesse venire qui vostro fratello, dovete avvertirmi perché possa andarmene.» «Nostro fratello? Frederick?» «Ah, sì, certamente. Mi spiacerebbe moltissimo lasciarvi così presto, ma è accaduto qualcosa per cui non potrei rimanere nella stessa casa con il capitano Tilney.» Eleanor smise di cucire e la guardò con crescente stupore, ma Harry cominciò a sospettare la verità e mormorò qualcosa a proposito della signorina Thorpe. «Come siete pronto?» gridò Catherine. «Scommetto che avete indovinato. Eppure, quando ne parlammo a Bath, non pensavate finisse così.» «Isabella, ecco perché non scriveva. Isabella ha lasciato mio fratello per sposare il vostro. Avreste mai creduto che potesse esistere tanta incostanza e volubilità e tutto quello che di peggio esiste al mondo?» «Spero, per quanto riguarda mio fratello, che ci sia un equivoco. Spero che egli non sia stato direttamente responsabile della situazione che alla fine ha tanto addolorato vostro fratello. È improbabile che gli sposi la signorina Thorpe. Penso che vi inganniate. Mi dispiace molto per il signor Morland. Mi dispiace che qualcuno che voi amate sia infelice, ma di tutta la storia quello che mi sorprenderebbe di più sarebbe questo matrimonio di Frederick con lei.» «È verissimo. Leggete voi stesso la lettera di James. Aspettate, c'è una parte.» Arrossì, ricordandosi l'ultima riga. «Vorreste essere così gentile da leggere voi stessa i brani che riguardano mio fratello?» «No, no, leggete voi stesso!» esclamò Catherine ripensandoci. «Non so neppure io a cosa stavo pensando.» E arrossì di nuovo. «James vuole solo darmi dei buoni consigli.» Egli prese subito la lettera e, dopo averla letta con attenzione da cima a fondo, la restituì e disse: «Ebbene, se le cose stanno così, posso solo dire che mi dispiace. Frederick non sarà il primo uomo che ha scelto una moglie meno sensata di quanto la sua famiglia si aspettasse. Non invidio la sua situazione, né come innamorato né come figlio.» La signorina Tilney, dietro invito di Catherine, lesse anche lei la lettera e, dopo aver espresso il proprio dispiacere e la propria sorpresa, incominciò a informarsi circa la famiglia e la situazione finanziaria della signorina Thorpe. «La madre è una signora molto per bene», rispose Catherine. «Cosa faceva il padre?» Credo che fosse avvocato, vivono a Paltney. Sono una famiglia ricca? No, non molto. Non credo che Isabella possegga nulla. Ma con la vostra famiglia non avrà importanza. Vostro padre è così aperto. Mi ha detto l'altro giorno che per lui il denaro ha importanza solo perché gli permette di favorire la felicità dei suoi figli. Fratello e sorella si guardarono. Ma, disse Eleanor dopo un breve silenzio, favorirebbe la sua felicità mettendolo in grado di sposare quella ragazza? Deve essere senza scrupoli, altrimenti non avrebbe trattato così vostro fratello. E che strana infatuazione da parte di Frederick. Una ragazza che davanti ai suoi occhi viola una promessa data spontaneamente per un altro uomo. Non è incredibile, Harry? Frederick, che è sempre stato così geloso del suo cuore, che diceva che nessuna donna era degna del suo amore. Questa è la circostanza più pericolosa, l'elemento più fondato a suo sfavore. Quando penso alle sue dichiarazioni, lo do per spacciato. Inoltre, ho un'opinione troppo alta della prudenza della signorina Thorpe per pensare che abbia lasciato un cavaliere prima di essere ben sicura dell'altro. Frederick è proprio finito, un uomo morto, defunto nell'intelligenza. Preparati alla tua nuova cognata. E che cognata! Sarà una delizia. Aperta, sincera, priva di sotterfugi, capace di affetto tenace ma semplice, senza arie, che non sa cosa sia la finzione. Una ragazza così, Harry, sarà davvero una delizia, disse Eleanor con un sorriso. Ma forse, osservò Catherine, per quanto si sia comportata così male con la nostra famiglia, può comportarsi meglio con la vostra, ora che ha l'uomo che vuole, forse gli sarà fedele. E temo proprio che lo sarà. Replicò Harry. Temo che sarà fedelissima, a meno che non incontri un baronetto, è l'unica possibilità di Frederick. Prenderò il giornale di Bath per vedere gli arrivi. Pensate allora che sia tutta ambizione? Parola mia, ci sono delle cose che vi danno ragione. Non posso dimenticare che quando seppe quello che mio padre avrebbe fatto per loro, sembrò delusa che non facesse di più. Non mi sono mai ingannata tanto sul carattere di qualcuno in vita mia. Tra tutta la gran varietà di persone che avete conosciuto e studiato. Sento con lei di aver subito una grossa delusione, una grossa perdita, ma il povero James, lui temo che non si riprenderà più. Oh, vostro fratello merita certo in questo momento molta compassione, ma non dobbiamo, preoccupati per le sue sofferenze, sottovalutare le vostre. Vi sembra? Immagino che perdendo Isabella avete perso metà di voi stessa, sentite un vuoto nel cuore che nient'altro può occupare. La vita di società diventa noiosa e quei divertimenti che eravate abituati a condividere con lei a Bath, solo il pensiero di parteciparvi senza di lei vi sembra orribile. Vi sembra di non avere più nessuna amica alla quale potete dire tutto, della cui stima per voi potete essere certa, del cui consiglio in qualsiasi difficoltà potete fidarvi. È questo che provate? No, disse Catherine dopo un attimo di riflessione. No, dovrei? A dire il vero, per quanto mi senta ferita e addolorata, perché forse non la vedrò più, non sono così tanto, tanto afflitta quanto si potrebbe immaginare. Voi provate, come sempre, quei sentimenti che sono i migliori della natura umana. Sentimenti come questi dovrebbero essere analizzati perché imparassero loro stessi a conoscersi. Catherine, per un motivo o per l'altro, sentì che la sua pena era talmente alleggerita dopo questa conversazione che non rimpianse di aver finito in modo tanto inspiegabile con il parlare della circostanza che l'aveva causata. Capitolo 26. Da questo momento in poi i tre giovani parlarono spesso e in maniera particolareggiata dell'argomento e Catherine scoprì con una certa sorpresa che i suoi due giovani amici erano entrambi fermamente convinti che il fatto che Isabella appartenesse a una famiglia non molto altolocata né molto ricca, con tutta probabilità avrebbe intralciato notevolmente il suo progetto di sposare il fratello. Erano certi che esclusivamente per questo motivo, e indipendentemente dalle obiezioni che il carattere di Isabella avrebbe potuto sollevare, il generale si sarebbe opposto all'unione. E questa persuasione fece sì che Catherine incominciasse a pensare con preoccupazione alla propria situazione. Era altrettanto insignificante e probabilmente altrettanto priva di dote. Se all'erede della proprietà Tilney non bastavano la propria posizione altolocata e la propria ricchezza, quali potevano essere le pretese del fratello minore riguardo alle questioni di interesse? Le riflessioni molto dolorose che questo pensiero le procurava poterono dissiparsi solo per la fiducia nell'effetto di quella simpatia particolare che, a quanto il generale dimostrava a parole e a fatti, Catherine fin dall'inizio aveva avuto la fortuna di ispirargli. E grazie al ricordo dei sentimenti più generosi e disinteressati in rapporto al denaro, che gli aveva sentito esprimere più di una volta e che la inducevano a pensare che l'atteggiamento di lui a quel riguardo fosse stato frainteso dai figli. Erano comunque così convinti che il fratello non avrebbe avuto il coraggio di chiedere di persona il consenso al padre e le assicurarono tanto spesso che mai come allora era improbabile che lui venisse a Northanger, che alla fine Catherine si lasciò convincere che non c'era nessuna necessità che lei partisse improvvisamente. Ma dato che era impossibile che il capitano Tilney, quando avesse formulato la sua richiesta, desse al padre un'idea esatta della condotta di Isabella, venne in mente a Catherine che poteva essere quanto mai utile che Harry gli esponesse l'intera faccenda così come era in realtà e mettesse quindi in grado il generale di formarsi un'opinione fredda e imparziale e di preparare delle obiezioni che avessero basi migliori della disuguaglianza di condizione sociale. Gli fece dunque la sua proposta, ma lui non se ne dimostrò entusiasta come lei si era aspettata. No, no, no, disse lui, non c'è bisogno di incitare mio padre ad agire energicamente e non c'è bisogno di prevenire Frederick nella confessione della sua follia. La sua storia deve raccontarla lui. Oh, ma lui ne racconterà solo la metà. Oh, ne basterebbe un quarto. Passarono un paio di giorni senza che si avesse notizia del capitano Tilney. Il fratello e la sorella non sapevano che pensare. A volte pareva loro che il suo silenzio dovesse essere la logica conseguenza del fidanzamento che sospettavano, altre volte che fosse l'esatto contrario. Il generale, nel frattempo, benché fosse offeso, come ripeteva ogni mattina, per la negligenza di Frederick che non scriveva, non era realmente in ansia per lui. E la sua preoccupazione principale restava quella di rendere piacevole la permanenza della signorina Morland a Northanger. Esprimeva spesso la sua inquietudine a quel riguardo. Temeva che la monotonia della compagnia e della routine giornaliera le facessero venire a noia il posto. Rimpiangeva che Lady Fraser non fosse anche lei lì in campagna. Parlava ogni tanto di dare una grande cena e una volta o due incominciò perfino a calcolare il numero di giovani del vicinato che si sarebbero potuti invitare per un ballo. Ma era una stagione così morta. Niente anatre selvatiche, niente selvaggina e Lady Fraser che non c'era. Finalmente finì con il dire a Harry che la prossima volta che fosse andato a Woodstone gli avrebbe fatto una sorpresa, andando un giorno o l'altro a mangiare un boccone da lui. Harry si dichiarò molto onorato e lieto e Catherine fu felicissima del progetto. E quando pensate, signore, che io possa aspettarmi questo piacere? Devo essere a Woodstone lunedì per presiedere la riunione della parrocchia e probabilmente sarò costretto a restarvi 2 o 3 giorni. Bene, bene, approfitteremo di uno di quei giorni. Non c'è bisogno di stabilire la data, non devi farti in quattro per noi. Andrà benissimo qualsiasi cosa ti capiti di avere in casa. Delle signorine rispondo io, sono certo che si dimostreranno comprensive verso la tavola di uno scapolo. Vediamo, lunedì sarà impegnatissimo e non è il caso di venire, e martedì sarò impegnatissimo io. In mattinata aspetto il mio sorvegliante che verrà da Brockham per farmi il suo rapporto e dopo non posso evitare di farmi vedere al club. Non potrei più guardare in faccia nessuno se non ci andassi almeno una volta. Tutti sanno che sono a Northanger e quindi se la prenderebbero terribilmente a male. E è una mia regola, signorina Morland, non offendere mai nessuno dei miei vicini, se posso evitarlo, mediante un sacrificio minimo del mio tempo e delle mie attenzioni. È un gruppo di uomini degni della massima stima. 2 volte l'anno mando loro un mezzo cervo e ceno con loro tutte le volte che posso. Martedì quindi è fuori questione. Ma mercoledì? Credo che tu possa aspettarci, Harry, e arriveremo presto, in modo da avere il tempo di guardarci intorno. Penso ci vorranno 2 ore e 3 quarti per arrivare a Woodstone. Per le 10 saremo in carrozza e quindi più o meno all'una meno un quarto di mercoledì saremo con te. Nemmeno un ballo sarebbe stato per Catherine più gradito di questa piccola escursione, tanto forte era il suo desiderio di conoscere Woodstone. E aveva ancora il cuore traboccante di gioia quando, circa un'ora dopo, Harry, già equipaggiato di stivali e soprabito, entrò nella stanza dove si trovavano lei e Eleanor e disse: «Sono venuto, care signorine, per darvi una piccola lezione di morale, per per osservare che i piaceri di questo mondo li dobbiamo sempre pagare e che spesso li acquistiamo a caro prezzo, cedendo una felicità reale in contanti per un progetto del futuro che potrebbe anche non avverarsi. Guardate me in questo momento, poiché spero di avere la soddisfazione di vedervi a Woodstone mercoledì, cosa che il cattivo tempo o 20 altri motivi potrebbero impedire. Devo andarmene immediatamente 2 giorni prima di quanto prevedessi. Andarvene? Disse Catherine facendo il viso lungo. E perché? Perché? Come potete farmi questa domanda? Perché non posso perdere altro tempo prima di spaventare a morte la mia anziana governante? Perché devo andare a ordinare la cena per voi, è evidente. Oh, non direte sul serio? Ah, certo, e anche con molto piacere, perché avrei di gran lunga preferito rimanere. Ma come potete pensare una cosa del genere dopo quello che ha detto il generale? Dopo che vi si è tanto raccomandato di non preoccuparvi minimamente perché qualsiasi cosa sarebbe andata bene. Harry si limitò a sorridere. Sono certa che per me e vostra sorella è assolutamente inutile che andiate. Lo sapete che è così. E il generale ha tanto insistito che non dovevate procurarvi niente di straordinario. E poi, se anche non avesse detto la metà di quel che ha detto, a casa ha sempre cene talmente eccellenti che consumarne per un giorno una anche mediocre non può procurargli niente. Magari potessi ragionare come voi, per il suo bene e per il mio. Arrivederci, dato che domani è domenica e Eleanor non ritornerò. Se ne andò, e dato che per Catherine era quasi sempre molto più semplice dubitare del proprio giudizio che di quello di Harry, si sentì presto costretta a riconoscergli di avere ragione, per quanto la sua partenza le dispiacesse. Ma la condotta inesplicabile del generale la fece meditare parecchio. Che egli fosse molto esigente nel mangiare se n'era già accorta da sola, ma che dovesse dire così chiaramente una cosa mentre ne intendeva un'altra era davvero stranissimo. Come si faceva allora a capire la gente? Chi avrebbe potuto, tranne Harry, rendersi conto di quello che aveva in mente il padre? Da sabato a mercoledì, comunque, dovevano rimanere senza Harry. Questa era la triste conclusione di ogni riflessione. E la lettera del capitano Tilney sarebbe sicuramente arrivata durante la sua assenza. Ed era sicura che mercoledì avrebbe piovuto. Il presente, il passato e il futuro erano tutti ugualmente tetri. Suo fratello così infelice, la grande perdita di un'amica come Isabella, l'umore di Eleanor che risentiva sempre delle assenze di Harry. Cosa poteva interessare o divertirla? Era stanca dei boschi e sottoboschi, sempre così perfettamente curati, così noiosi. E la stessa abbazia ormai non era per lei che una casa come un'altra. Il ricordo doloroso delle idee folli che aveva suscitato e alimentato era l'unica emozione che poteva ridestare in lei quell'edificio. Che rivoluzione nelle sue idee. Lei che aveva tanto desiderato essere in un'abbazia. Ora non c'era niente che esercitasse sulla sua immaginazione un fascino maggiore di una graziosa canonica, comoda ma senza pretese. Qualcosa come Fullerton, ma migliore. Fullerton aveva i suoi difetti, ma Woodstone probabilmente non ne aveva nessuno. Oh, se almeno mercoledì fosse arrivato presto. Il mercoledì venne esattamente quando ci si poteva logicamente aspettare che arrivasse. Venne, era bel tempo, e Catherine era al settimo cielo. Alle 10 lasciarono in carrozza l'abbazia e dopo una piacevole passeggiata di circa 20 miglia arrivarono a Woodstone, un paese grande, popoloso, in una posizione niente male. Catherine si vergognava di dire quanto lo trovasse grazioso, dato che il generale trovava necessario scusarsi per la campagna troppo piatta e per le dimensioni del paesino, ma in cuor suo lei lo preferiva a qualsiasi altro luogo dove fosse mai stata e osservava ammiratissima ogni casetta che fosse appena al di sopra di una capanna e tutti i piccoli empori ai quali passavano davanti. All'estremità opposta del paese, un po' staccata dal resto, c'era la canonica. Una solida casa di pietra costruita di recente, con il suo viale semicircolare e la cancellata dipinta di verde. E quando si avvicinarono alla porta, videro Harry insieme ai compagni della sua solitudine, un grosso cucciolo Terranova e 2 o 3 terrier, pronto a riceverli nel modo migliore. Quando entrò in casa, Catherine aveva la mente troppo frastornata per osservare o dire un granché, e finché il generale non la risvegliò chiedendo la sua opinione, lei non si rendeva nemmeno conto in che stanza si trovasse. A quel punto si guardò intorno e sentì subito che era la stanza più confortevole del mondo. ma fu troppo cauta per dirlo, e così la freddezza delle sue lodi dispiacque al generale. «Oh, non pretendiamo che sia una gran bella casa», disse. «Non la paragoniamo a Fullerton o a Northanger, la consideriamo una semplice canonica, piccola e isolata, certo, ma forse decente e abitabile, e non inferiore alle altre. O in altre parole, credo vi siano ben poche canoniche di campagna in Inghilterra che valgano la metà di questa. Si possono apportare dei miglioramenti, comunque, ben lungi da me sostenere il contrario. Qualsiasi cosa ragionevole, forse un'ala in più, benché detto fra noi, se c'è una cosa che detesto sono le parti nuove aggiunte alla meglio». Catherine non sentì di questo discorso una parte sufficiente per capirlo o per addolorarsene. E un po' gli argomenti di conversazione proposti e sostenuti ad arte da Harry, un po' contemporaneamente il vassoio carico di cibo portato da un servitore, aiutarono il generale a recuperare il suo buon umore e Catherine la sua abituale spensieratezza. La stanza in questione era ampia, ben proporzionata e arredata con gusto per fungere da salottino e da sala da pranzo. Quando la lasciarono per visitare il giardino, a Catherine fu mostrato prima l'appartamento privato del padrone di casa, piccolo ma reso insolitamente ordinato per l'occasione, e quindi quello che avrebbe dovuto essere il soggiorno, alla cui vista, sebbene non fosse ancora ammobiliato, Catherine si entusiasmò tanto da soddisfare perfino il generale. Era una stanza graziosa, con ampie portafinestre che offrivano la vista piacevole dei prati verdi, ed ella espresse questa volta la sua ammirazione con tutta la sincerità e la semplicità con cui la sentiva. «Oh! Ma perché non ammobiliate questa stanza, signor Tilney? Che peccato che non sia arredata, è la stanza più carina che abbia mai visto, è la stanza più carina del mondo». «Spero sentitamente», disse il generale con un sorriso soddisfattissimo, «che verrà ammobiliata con la massima rapidità, è solo in attesa di una signora di buon gusto». «Ebbene, se fosse casa mia me ne starei sempre qui». «Oh, ma che graziosa casetta che c'è tra gli alberi! E sono meli! Oh, è proprio un amore di casetta! Vi piace? La provate? E quanto basta! Harry, ricordati che bisogna parlarne a Robinson. Il cottage rimane». Un complimento come questo fece tornare in sé Catherine e la zittì immediatamente. E benché il generale le chiedesse insistentemente quali colori preferisse per la carta da parati e la tappezzeria, non si riuscì più a cavarle una parola sull'argomento. L'influenza delle cose nuove dell'aria pura, comunque, fu molto utile per dissipare queste imbarazzanti associazioni, e quando raggiunsero il giardino vero e proprio, che consisteva di un vialetto che correva lungo due lati di un prato, in cui l'ingegno di Harry aveva incominciato a lasciare il segno a partire da 6 mesi prima, lei si era ricomposta abbastanza da pensare che era il giardino più carino in cui fosse mai stata. Anche se non c'era neppure un cespuglio più alto del rialzo erboso nell'angolo. Una passeggiata per i prati e attraverso parte del villaggio, con una visita alle stalle per esaminare alcune migliorie e una piacevole pausa di gioco con dei cuccioli che non facevano che ruzzolare, ed ecco che si fecero le 4, quando Catherine pensava che o no potevano essere le 3. Alle 4 dovevano cenare e alle 6 riprendere la via del ritorno. Mai una giornata era passata così rapidamente. Catherine non poté fare a meno di notare che l'abbondanza della cena non sembrava meravigliare minimamente il generale, anzi che egli sbirciava perfino il buffet cercando della carne fredda che non c'era. I figli invece notarono altre cose. L'avevano visto raramente mangiare così di buon appetito a una tavola che non era la sua e mai si era preoccupato così poco del fatto che il burro fuso era troppo liquido. Alle 6, dopo che il generale ebbe preso il caffè, salirono di nuovo in carrozza. E lui si era comportato in modo così gentile durante l'intera visita, e lei si sentiva così rassicurata circa le sue aspettative, che se avesse potuto essere altrettanto certa dei desideri del figlio, avrebbe lasciato Woodston con ben poca ansia circa il come e il quando avrebbe potuto tornarvi.